Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il 30 settembre 2005 me lo ricordo bene. Giornata di sole, auto pulita, io e mia moglie armi in resta con tonnellate di documenti firmati, analisi fatte e foto autenticate. Abbiamo preso e siamo andati a depositare la nostra prima domanda di adozione presso il Tribunale di Milano. Mi chiamo Federico, ho 40 anni, sono di Monza, sono sposato e oggi sono un felice papà di due meravigliosi bambini. Se si parla di adozioni, noi siamo una famiglia in attesa di adozione da quasi 6 anni, Fabio. Grazie a destini incrociati ho conosciuto la storia di Adriano Olivetti e ora la sua filosofia di lavoro e di vita hanno ampliato e rafforzato la mia, Celeste. Ho adottato il mio primo cagnolino dopo che mio fratello l'aveva trovato in mezzo ai rifiuti la notte di Natale. Quell'inverno faceva un gran freddo e se non l'avessimo trovato e accolto probabilmente non ci sarebbe più. Elisa. Io, questo è secco, io ho adottato la dottrina della tolleranza, Liliana. Si parla di adozione oggi qui a Voi Siete Qui a Radio 24, sono le 16 e 9 minuti, quasi 10 di un giovedì qualunque, 6 di dicembre 2012. 349-238-6666 se avete un cellulare sotto le mani. Se avete un computer invece avete due possibilità, se avete un profilo Facebook Voi Siete Qui Radio 24, altrimenti mandate una mail a voisietequi@radio24.it. Qualsiasi cosa voi abbiate adottato nella vostra vita, che si tratti di un cagnolino appunto come Elisa, di un gatto come qualcun altro, quindi animali, ma non solo, se avete adottato un modo di pensare, se avete adottato una religione o una filosofia di vita, se avete adottato una disciplina particolare che regola le vostre giornate, se invece avete adottato, state aspettando di adottare un bambino, questa è la puntata per voi. 349-238-6666. La puntata che è stata scelta, è scritta e raccontata da Federico, che ha una storia che è abbastanza comune alle persone che decidono di mettersi sulla strada dell'adozione di un bambino. Arrivano, devo dire, piuttosto di frequente storie che parlano di questo argomento. Non sono solo Federico e sua moglie che ci hanno mandato questa storia. Credo ne avessimo già fatta un'altra, se non ricordo male, credo la stagione scorsa. Perché demoraste tanto? Bravissimo. Che era la domanda del bimbo che quando vide i genitori disse: perché avete aspettato così tanto? 349-238-6666. Anche questo è un esempio di come storie che non ci appartengono sono comunque un pezzo di nostra storia, è di storia nostra e della nostra vita. Anche se non abbiamo mai adottato un bambino, anche se abbiamo dei figli nostri o se di figli non ce ne abbiamo, se siamo single e non abbiamo in mente di adottare niente, né un bambino, né un cane, né una religione, questa storia parla anche di noi. Il giorno si avvicina, manca veramente poco e poi l'attesa sarà finita. Potrò vederlo, vedere com'è fatto, il viso, le gambe, le braccia, i suoi capelli. Potrò annusarlo perché anche lui avrà un profumo solo suo, che mi rimarrà dentro per sempre. Acre o dolce, lo scoprirò tra poco. Potrò toccarlo, avrà la pelle delicata, con piccole imprecisioni che nessuno vedrà, ma che solo io saprò riconoscere, anche ad occhi chiusi. Potrò sentirlo, manderà degli urletti, dei sorrisi e dei pianti, che si fermeranno nella mia mente, come quelle canzoni che non si riesce a mandare via, anche se volessi. Ma soprattutto terminerà un'attesa durata 2429 giorni, dal 3 settembre del 2005 al 24 maggio del 2012. Quel giorno conoscerò Kidus, mio figlio adottivo. Abbiamo tanti amici che hanno già intrapreso il cammino adottivo e io sono anche un felicissimo padrino di una bellissima bambina che viene dalla Colombia. Il 3 di settembre del 2005 me lo ricordo molto bene. Giornata di sole, auto pulita, io e mia moglie armi in resta con tonnellate di documenti firmati, analisi fatte e foto autenticate. Siamo andati a depositare la nostra prima domanda di adozione presso il Tribunale di Milano. Noi ci sentivamo già due genitori. Presentiamo la pratica e pensiamo: due scartoffie, due colloqui e poi via, un bambino. A dire la verità, la natura è stata più veloce della burocrazia. Dopo mesi di colloqui con assistenti sociali, psicologi, giudici, dopo 3 corsi di preparazione all'adozione, un approfondimento da un'amica psicologa per prepararci ancora meglio, i nostri gameti, da diversi anni assopiti, si risvegliarono durante una vacanza presa, tra l'altro, proprio per festeggiare la fine dei colloqui. E 9 mesi dopo nacque Gherardo, il nostro primo pensiero felice. La scintilla però non si spegne e il pensiero corre sempre là, dove il nostro bambino perduto ci aspetta. Ma il tribunale non concede deroghe, ci rifiuta una richiesta di rinvio e di ulteriori approfondimenti. Ci consiglia di ripresentare 3 anni dopo la domanda. Il 29 aprile del 2010, quindi, ci rimettiamo in moto, nuovamente armi in resta. Andiamo a ripresentare la domanda di adozione, sempre a Milano. La macchina è un po' meno pulita, la giornata è nuvolosa e i documenti sono sempre di più. La burocrazia in quei momenti ti assale, ti fa sentire piccolo e impotente, però alla fine scopri che forse lo fanno veramente per un bene superiore. Ancora mesi di colloqui anche con Gherardo, che a 3 anni si dimostra così bravo da meritare una stella di merito dalle psicologhe, assistenti sociali e giudice per la maturità dimostrata. Ma uscendo dall'ultimo colloquio, senza farsi vedere dal collegio giudicante, in disparte triste, piange. Mi dice: non sono stato bravo, non ci hanno dato il fratellino. A 3 anni è difficile spiegare che bisogna saper aspettare tanto tempo. Non riusciamo ad accettarlo noi, figuriamoci lui. Ma si sa, i bambini sono intelligenti e quando si mette ad attendere ne parla ogni tanto, ma fondamentalmente impara ad aspettare. 2 mesi fa arriva una telefonata che ci informa di un abbinamento. Niente foto, solo un nome, Kidus, e uno stato, l'Etiopia. Già il nome Kidus mi sembra il nome più comune e più bello del mondo, che nome avrei dato ad un figlio, Kidus, è chiaro. Poi la seconda telefonata, che ci dice che presto conosceremo nostro figlio. Quindi biglietto per Addis Abeba, prenotazione di un albergo, valigie. Il piano è questo qui. Io, mia moglie e Gherardo, il 23 maggio, in aereo, direzione Addis Abeba, orfanotrofio, dove conosceremo nostro figlio. Poi tribunale, dove parleremo con il giudice e poi ritorno a casa, solo noi 3. Senza Kidus, perché lui deve aspettare ancora 3 mesi per avere tutti i documenti, ma si sa, i bambini sanno aspettare. Noi, intanto, ci terremo il nostro secondo pensiero felice e un piccolo refrain nella nostra mente. Io non ho figli né biologici e nemmeno adottati. Questo però non significa che non mi piacciono i bambini. Anzi, forse qualcuno di voi ricorderà che un paio di anni fa bussò alla porta di casa mia un giorno un ragazzino di cui poi parlai per qualche settimana, credo. Si chiama Ettore. Abbiamo giocato alla PlayStation insieme, gli ho fatto da babysitter, abbiamo chiacchierato e lui mi ha insegnato un sacco di cose. Ettore, crescendo, non ha perso l'abitudine di passare a suonare il campanello ogni tanto. Stiamo su un ballatoio, sullo stesso. Quindi lui passa di lì e suona. Ettore è uno di poche parole. Quando suona, io apro, lui entra e basta. Si mette sul divano oppure sbircia sul tavolo della cucina. L'altro giorno è venuto e mi ha detto che era contento che io avessi parlato di lui alla radio. Era capitato più di un anno prima. Lui però non me l'aveva mai detto, in tanto tempo. E poi mi ha chiesto come si fa la pizza. E allora gli ho chiesto perché lo volesse sapere da me e lui mi ha risposto che era perché io una volta gli avevo detto che la vita è come una pizza margherita per l'esattezza. E lui non aveva capito, poi però aveva risentito la puntata in podcast e ci aveva pensato su un sacco. E adesso era pronto per imparare a farsela. Una vita è una pizza, mi ha detto. E lui a quel punto mi ha recitato a memoria il pezzo che avevo scritto e che gli avevo raccontato 2 anni fa e che lui aveva riascoltato un sacco di volte. La vita è come una pizza margherita. È buona da mangiare. Quando esce dal forno scotta, ma lì è il momento in cui è più buona. Forse anche perché hai tanta fame. E allora la mangi veloce e ti ci bruci. Poi, piano piano, molto prima che tu sia a metà, la mozzarella si indurisce e la pizza comincia a diventare cattiva. ma tu la mangi lo stesso, perché non è male. Però cominciano a venirti in mente delle strane idee, tipo rimetterla nel forno per farla tornare come era all'inizio, come era prima. Solo che questo non si può fare, e quindi ci resti male. E allora in quel momento cerchi di divorarla, perché ogni secondo che passa la raffredda ancora di più. E mentre la mangi con forza, ti dispiace che non ci sia più la mozzarella filante e la pasta morbida, e ti viene la malinconia. Ah, in più ti si gonfia lo stomaco perché stai mangiando troppo veloce. Ma se anche te ne accorgi, niente, non riesci a fermarti. Ecco, quello è il momento peggiore. Quando invece poi la pizza la stai finendo, ormai è quasi fredda e fa schifo. Però, pur facendo schifo, rispetto a quando è uscita dal forno, è sempre più buona, che so, degli spinaci al burro, ad esempio. Per cui stai un po' lì fermo, lasci che la pizza che hai divorato a metà scenda e incominci a goderti l'ultimo quarto, a pezzettini, come se fossero degli scarti. E lì ricominci a sorridere perché la crosta, anche se dura, anche se è fredda, è gustosa e la mangi chiacchierando, quindi non le dai tanta importanza. E magari ogni tanto ti capita un pezzetto di mozzarella o un pomodoro, e allora ricorda la pizza all'inizio, quando era calda. Ti tocchi il palato con la lingua e senti che è ancora un po' insensibile, colpa di quando ti sei scottato pochi minuti prima. E il tempo si dilata. E cominci a bere la Coca-Cola. E pensi a come riuscirai a mandarla giù, tutta quella pizza. Ma non soffri, perché in fondo una pizza è la cosa più buona che c'è. E quando Ettore me l'ha raccontata di nuovo da capo questa storia, io mi sono un po' commosso quando ha finito di parlare. E ho deciso che allora gli avrei preparato la pizza. Certo, non è quella di un professionista, però è mangiabile. E poi è la mia. Ettore invece saprà prepararsi la sua. Perché ognuno ci mette un po' il suo ingrediente segreto, no? La modifica, la rende un po' simile a se stesso. Io, per esempio, oltre alla passata di pomodoro, ci metto sempre dei pomodorini freschi. E poi mai l'origano e sempre mozzarella fresca, che farà anche un po' d'acqua, ma se la fai cuocere un po' di più, è perfetta. Last night all my attention squinting westward at the sunset with a map and a compass. When a man reached up, said something there against the sky, a point of light. C'è qualcuno che già mi scrive qual è l'etimologia del nome Kidus, ed è Kedus in aramaico, significa santo, non lo so. In amarico, che non è l'aramaico. 3492386666. Io ho adottato a 24 anni, mi scrive Stefano dal Gargano, la lotta allo stigma dei pazienti psichiatrici, essendo un figlio mai avuto di questa malattia. E poi c'è chi dice che Riccardo ha adottato gatti in quantità industriale. Chiunque venga da me e mi dica ho un gatto piccolo, io lo prendo. Sono Alfredo da Trieste. 9 anni fa abbiamo adottato una cagnolina con 3 zampe. Adesso è come una di casa. Abbiamo 3 figli, 2 cani, 2 pesci rossi e una suocera. E poi invece c'è un messaggio che voglio leggere di proposito, che dice: sono una mamma adottiva e trovo di una volgarità inaudita associare l'adozione di un figlio con quella di un cagnolino. Io no, altrimenti ovviamente non l'avrei fatto. E penso che l'adozione abbia un significato molto ampio, e poi che si decida di adottare un bimbo, un animale o una dottrina, semplicemente si modifica il tipo di rapporto che si ha con quella cosa lì, non con l'adozione. Però tant'è, ognuno la pensa un po' come gli pare. 349 238 6666. Vorrei però capire non tanto come la pensa, ma a che punto è Federico, Gherardo, sua moglie, e Kidus è pronunciato giusto. Pronto Federico? Sì, ciao Matteo, sono Federico. Ciao, come stai? Benissimo, grazie. Mi correggi la dizione del nome? Beh, la dizione in amarico, come hai detto giustamente, è difficilissima. Io lo chiamo Kidus, perché siamo in Italia, all'italiana lo chiamo. E comunque giusto vuol dire santo. Vuol dire santo, santo, perfetto. Ma tra l'altro è un nome che viene utilizzato anche nella lingua ebraica, nella lingua islamica, usano tutti il nome Kidus, per cui senti, è un nome comune. Raccontami a quando risale, perché tu come tutti quanti ci mandi questo episodio quando l'hai scritto, noi però abbiamo una coda di lettura, bla bla bla. A quando risale l'incontro in Etiopia con lui? L'incontro in Etiopia è stato poi anticipato di qualche giorno, di un paio di settimane, ed è avvenuto alla metà di giugno, esattamente il 12 giugno. Del 2012, giugno, quindi... Del 2012, okay. Naturalmente, sì, di quest'anno. Ed è stato un incontro così, molto bello, molto emozionante. Quanto tempo aveva lui? Lui aveva 9 mesi, compie dopodomani un anno. Anzi, oggi il mio primo figlio, Gerardo, compie 6 anni, quindi l'anno oggi di uno, dopodomani dell'altro. Quindi hai una festa, fai una festa unica per tutte e due, immagino. 3 giorni di festa. Ok, diciamo. A sto punto, panini al latte e via. Si fanno ancora, esatto, i panini al latte con il salame dentro? Con il salame, esatto. Di la verità, ne ho visti anche qua in redazione, non so di chi ho visto i panini al latte. Le avete visti prima su un tavolo? Vabbè, ma chi se ne frega? No, no, no, tu no, lo immagino. Senti, quindi lui aveva 9 mesi e in base a cosa viene deciso quello che tu definisci abbinamento? Un terzo, un giudice straniero oppure, sì, ma di solito è un ministero, nel caso straniero, in Etiopia, che ha deciso che noi andavamo bene per questo bambino. Ma in base a cosa? È una casualità, ma niente, al caso, al fatto che c'è una lista, un elenco, e quindi noi eravamo a quel punto della lista, a quel punto non poteva andare bene. C'erano delle caratteristiche tecniche del bambino, tecniche, non intendo bello, brutto, alto, basso, sono sì, che sì, doveva essere più piccolo del bambino che già avevamo. Ah, okay. L'unica. E poi l'altra caratteristica tecnica riguardo alle malattie, non spesso non vengono considerati bambini che hanno delle malattie gravi tipo AIDS piuttosto che epatiti, così, salvo che venga specificamente richiesto dalle coppie. Ah, ok. Okay. Senti, quindi la vostra attesa è durata 7 anni in pratica? Sì, però nel frattempo abbiamo avuto un bambino. No, no, no, no, certo, non l'avete aspettato. Fregato, non è che avete fatto. Ah, vi ha fregato quello? No, l'ho un po' fregato io. Di solito l'attesa media è 3 anni, 3 anni e mezzo. No, perché è arrivato, guarda, un messaggio, lo leggevo prima su Facebook, di una famiglia che sono 6 anni che aspetta. E altri messaggi via SMS. Beh, se uno non si propone di andare a fare le adozioni all'estero, le adozioni in Italia, i tempi di attesa possono arrivare a 5-6 anni, anche di più magari. Ma infatti l'adozione alla fine è un fatto di attesa, uno attende, prima o poi capita qualcosa. Bisogna solo, io quando ho detto che mio figlio ha atteso meglio di noi, sì, perché naturalmente mia moglie era sempre fuori di testa del fatto che non ci chiamavano, non facevano, ci ha rimandato, io vi ho detto si partiva il 24 maggio, l'avremmo visto, e ci hanno rimandato al 12 giugno, per noi è stata una tragedia. Beh, immagino, in mano, lo immagino. Per mio figlio Gerardo è stato, vabbè, fra 2 settimane, dopo 2 settimane in più qua. E Gerardo come interagisce con Kidus? Benissimo, è contentissimo. Ogni tanto io gli faccio le domande trabocchetto, dico, ma tu, per te è proprio tuo fratello, così, e lui mi guarda come dire, ma tu papà sei fuori di testa o cosa? Certo che è mio fratello. Senti, ti ringrazio molto per la tua storia, e in bocca al lupo per tutto, e buon compleanno a Gerardo e a Kidus. Ciao, grazie, Federico. Buona trasmissione, grazie di tutto. Alla faccia molto contenta Federico nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui. Alla faccia nella foto, ha la faccia contenta e stravolta anche un pochettino, ha la barba un po' incolta, ha il viso quasi abbronzato, forse perché me lo immagino in Etiopia nella mia scarsa immaginazione, mi immagino che se uno va in Africa è subito abbronzato. C'è solo la sua faccia nella foto e alle spalle si vede il retro di un furgone, quindi deve essere su una specie di taxi o un furgone che si trova là, ad Addis Abeba, esattamente quando è andato a prendere Kidus. Poi, credo che nella foto sul sito non ci sia, ma nella foto più grande invece lui teneva in braccio 2 bambini. Uno era Gerardo e l'altro era Kidus. Adottare. Verbo transitivo. Prendere come proprio il figlio di altri con l'atto legale dell'adozione. Far proprio. Adottare un libro. Sceglierlo quale testo di studio per i propri alunni. Mettere in atto per uno scopo. Attuare. Etimo dal latino. Tanto per cambiare, ma questa lo so dire. Etimo dal latino adoptare, derivato di optare, desiderare, scegliere, col prefisso ad. Data prima del 1292. Quante cose si imparano da questo dizionario che noi abbiamo inserito un po' come dire, dai, mettiamo una parola, ma se te lo stai bene ad ascoltare, come fa Pietro La Corte quando smanetta lì sui tasti di là dal vetro, ti dice molto di più del significato di una parola. Francesco da Brescia: io ho adottato un meraviglioso bambino di 1 mese, oggi è un uomo meraviglioso di 26 anni. Renata scrive: ciao, lunedì è arrivata la mia nipotina dalla Colombia, siamo tutti felici, siamo stra felici. siamo strafelici, è quasi gergale, siamo strafelici. E poi Filippo mi scrive invece: a noi hanno rifiutato l'adozione due volte e non abbiamo ancora capito dove siamo sbagliati. Filippo, guarda, non so se io non ne capisco niente, non lo so, però quello che dice Federico pare che appunto racconta più che altro di una casualità riguardo alle pratiche, però non ne so nulla. 349-238-6666, visto che si parlava di adozione, avremmo voluto fare altro, ma è arrivata una mail oggi che è scritta proprio da una persona che è stata adottata e non da una persona che ha adottato. E è una bella storia e ve la voglio raccontare. Ero già grande quando sono venuti a prendermi. Avevo 6 anni e mi ricordo tutto. Mi ricordo l'educatrice, quella che era stata con me negli ultimi 2 anni. Mi venne a prendere e mi disse che i miei genitori erano arrivati. Non parlavo l'italiano all'epoca e quando i miei genitori mi salutarono riuscii giusto a dire ciao. Ricordo solo quei primi momenti e poi c'è una sorta di blackout nella mia memoria. È come se da 6 anni fossi passato direttamente ai 10, quando ero in quinta elementare e mi preparavo al mio primo vero esame. Ecco, da lì in avanti mi ricordo tutto perfettamente. Ricordo le prime volte che qualcuno mi ha preso in giro per il colore della mia pelle e ricordo i miei genitori che mi spiegano che non ha nessun senso pensare che persone con la pelle più chiara siano diverse da quelle con la pelle più scura. Ricordo la mia casa come la mia casa e la mia famiglia come la mia sola famiglia. Quando ho compiuto 18 anni i miei genitori mi hanno chiamato in salotto una sera prima che uscissi. Sembrava una puntata dei Jackson, il telefilm in cui la famiglia si riuniva sempre in salotto sul divano. Loro mi dissero che i miei genitori naturali volevano venire in Italia per conoscermi. Erano molto agitati. Non so che cosa temessero dalla mia risposta. Io gli dissi che per me non c'era nessun problema, che potevano venire, che li avrei incontrati come avrei incontrato qualsiasi persona venisse in pace, ma che per me la mia famiglia rimanevano loro. E poi che cos'è la famiglia? Chiesi giusto prima di uscire con un piede sulla porta. Loro sono rimasti interdetti e io ho aggiunto: sono quelli che ti vogliono bene. Avevo 18 anni e dissi quella frase senza pensarci davvero, però suonò come una cosa grossa ad effetto. Ora di anni ne ho 45. Mia madre non c'è più e ho anche conosciuto i miei genitori naturali. Ho una moglie e 2 figli. Sono italiano, sono figlio, padre e assicuratore. E oggi penso che quella frase che dissi sulla porta a 18 anni abbia ancora più senso. La famiglia non è quella che ti capita, ma tutti quelli che ti vogliono bene, che si prendono cura di te e di cui tu ti prendi cura. Sono quelli che ti adottano e quelli che adotti tu. Nuru. Surprised, I was happy for a day in 1975. I was puzzled by a dream that stayed with me all day in 1995. La mail di Nuru, quella che vi ho appena letto, la trovate sul profilo Facebook del programma, che si trova all'indirizzo Voi siete qui Radio 24. Il vince il messaggio di oggi, Donatella da Genova, che scrive: meravigliosa trasmissione, quando l'annunciasti pensai che palle, sarà una cagata mostruosa. Oggi invece vi aspetto tutti i giorni e quando riesco a ascoltarvi vi ascolto in podcast. Il podcast di ieri ha qualche problema, ma credo l'abbiano caricato, è stato risolto, quindi c'è anche quello di ieri. Grazie a Matteo, scaricatelo dal sito di Radio 24 o gratuitamente da iTunes. Grazie a Tiziano Bonini, a Stefano D'Andrea, a Margherita Ina e a Pietro Lacorte. Grazie soprattutto a Federico, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Enrico e la storia di domani è la mia. Parla di uomini, di donne e della buona età. Questa è la mia storia e io sono qui.